Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, l'unico programma radiofonico curato e condotto da una redazione diffusa in più città italiane di giornalisti attivi nelle galassie animaliste, antispeciste e vegan. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Questa settimana parleremo di uccelli migratori, delle persone speciali che li curano e li proteggono, di libri per bambini, di mattatoi che devono chiudere, ma anche di buona cucina e di attualità. E come sempre ascolteremo ottima musica. Durante la scorsa puntata di Restiamo Animali abbiamo conosciuto il team investigativo Free John Doe, che ha condotto per mesi una delicata investigazione con telecamere nascoste all'interno di un mattatoio di Frosinone. Dopo che tali immagini sono andate in onda in televisione, all'interno del programma televisivo Animali come noi, il mattatoio investigato è stato chiuso per una settimana. Adesso però sembra che la struttura sia tornata attiva. Vista l'inaudita gravità di quanto accaduto in questo mattatoio, Free John Doe ha lanciato un mail bombing per chiederne l'immediata chiusura all'ASL di competenza, ovvero quella di Frosinone. Per aderire al mail bombing cercate l'evento Facebook In Azione col punto esclamativo mail bombing per chiudere il mattatoio investigato, oppure cercate sempre su Facebook Free John Doe. Il rondone, nome scientifico Apus apus, è un piccolo uccello migratore della famiglia degli apodidi. Ha il piumaggio scuro, quasi nero, e la gola biancastra. Lo si riconosce facilmente per le sue ali a forma di falce e per la coda leggermente biforcuta. Il becco è molto corto e appuntito, ma l'apertura boccale è notevole. Esteticamente la sua testa ricorda qualcosa di veramente antico, infatti il fossile più antico di rondone risale a qualcosa come 49 milioni di anni fa. Il rondone viene erroneamente confuso con la rondine, però con questa non ha in realtà alcun tipo di parentela. Nidifica tra l'Europa e l'Asia, ma sverna in Sudafrica, compiendo migrazioni portentose a velocità che vanno pensate dai 160 ai 220 km orari. Abilissimo nelle picchiate, nelle virate, nelle cabrate acrobatiche, il rondone, più che un uccello, è una specie di robottino volante. Infatti trascorre praticamente tutta la sua vita in volo. Ecco l'elemento di grande fascino. Questo uccello mangia in volo gli insetti, si accoppia in volo e addirittura in volo riesce a dormire. Si poggia solo quando accudisce il nido e deve fare attenzione a nidificare solo in certi punti dai quali può agilmente rimettersi in volo senza dover saltare, dato che per la sua conformazione non è in grado di spiccare un volo da terra. Per questa loro caratteristica i rondoni spesso finiscono nei guai. In caso di incidente, se il rondone cade a terra, non riuscirà più a rimettersi in volo, ammesso che l'incidente non abbia prodotto qualche danno importante. Chi si occupa di fauna selvatica, in particolare di uccelli, impazzisce letteralmente per questi animali, che sono dei veri simboli di libertà, per la loro vita tutta spesa tra le nuvole, con pochissimi contatti terreni. proprio a maggio i rondoni stanno accudendo i nidi dai quali in agosto i piccoli partiranno assieme agli adulti per il loro primo viaggio verso l'Africa centro-sud. In Europa esiste un centro specializzato a Francoforte che si prende cura dei rondoni, riesce a fare operazioni chirurgiche straordinarie ed è conosciuto in tutto il mondo. Il sito internet di questo centro è pieno di informazioni utili tradotte anche in lingua italiana. Ma anche nel nostro paese esiste un centro specializzato eccellente, si chiama Liberi di Volare e si trova a Trieste. Siamo andati a trovarli per portare loro un rondone che aveva un'ala a terra, Ronduzzo, l'avevamo chiamato così per fare rima con la località dove lo avevamo raccolto. Ronduzzo purtroppo non ce l'ha fatta, ma lo abbiamo ugualmente portato a Trieste perché le sue penne, pensate, serviranno ad altri rondoni per rimettersi in viaggio. Sentiamo il servizio. Siamo a Trieste, nella sede dell'Associazione Liberi di Volare. Con Silvano vogliamo parlare di una attività che viene praticata solo qui nel nostro paese, e cioè l'impianto di penne. Come si realizza questa pratica? Chi è in grado anche di praticarla? Perché evidentemente anche da un punto di vista medico-veterinario non è una cosa semplice. No, non è una cosa semplice. Quei rondoni che hanno avuto problemi con penne spezzate, traumi proprio alla penna, e che quindi per poter ripartire necessitano di un impianto di penne. L'impianto di penne viene fatto con le penne di un donatore. Deve esserci il calamo nel rondone, quindi va inserita la penna del donatore con un'asticella di carbonio che deve essere assolutamente compatibile con il calamo, e la penna anche deve essere una penna compatibile con quella del rondone. Non solo della stessa dimensione, ma le penne sono numerate, le remiganti sono per dire 10, come 10 sono anche le timoniere, e praticamente deve ognuna corrispondere alla penna mancante o spezzata del rondone. Il rondone dopo viene riabilitato in palestra, una palestra di volo, e dopo, quando il volo raggiunge una sua perfezione, allora lo liberiamo in natura. In genere quanto tempo passa dall'impianto e poi la libertà, il volo? Dall'impianto alla libertà una settimana è quasi sufficiente, dipende quante penne vengono impiantate. È frequente che i rondoni si procurino rotture delle penne? Per quale motivo avvengono questi episodi? Loro sono animali che praticamente vivono la loro vita in volo, hanno remiganti molto lunghe, e quindi può succedere un trauma da impatto, anche un rapace, un predatore, magari il nido che hanno chiuso gli umani, e allora quando lui ritorna sa che il suo nido era lì ma che purtroppo non viene più trovato, e il rondone si impatta e può subire un trauma anche grave, si impatta sui fili della luce, il colpo di vento. Ecco, noi oggi abbiamo portato da Firenze un esemplare di rondone raccolto per strada, curato per qualche giorno, purtroppo non è sopravvissuto, e però l'abbiamo portato comunque qui a Trieste perché diventerà un donatore. Ecco, cosa succederà adesso di questo? Ringraziamo, perché le penne di questo sfortunato uccello verranno prelevate dal calamo direttamente, saranno conservate assolutamente e accuratamente e verranno usate quanto ce ne sarà bisogno. Noi ogni anno in media un 20-30% ci partono assolutamente con imping, altrimenti non avrebbero mai modo di poter partire. 20-30% su un totale circa? Totale, non so cosa dire, di un 120 volatili è un buon numero. Un imping può richiedere assolutamente tante ore, e il nostro veterinario, per esempio, qui da stamattina per due migratori sono le 16 e ancora sta preparando le penne per il secondo migratore, perché è un lavoro molto meticoloso. L'imping lo si usa nella falconeria, e quindi è una tecnica antica della falconeria, ma ovviamente usare questa tecnica in uccelli così piccoli richiede sicuramente molta cura. Noi abbiamo appreso questa tecnica dal grosso centro internazionale che è a Francoforte sul Meno, che è la Mauer-Segler Clinic, dove sono esperti da oltre 25 anni. La dottoressa Cristiana Haupt, responsabile del centro, è una maestra in questo senso. E il vostro veterinario è? Il nostro veterinario è il dottor Stefano Pesaro, che ha avuto la passione anche di applicarsi e di studiare maggiormente questo tipo di volatili e anche questa tecnica, e noi spesso ogni anno ci rechiamo per aggiornamenti in questa clinica, che dove hanno una grande specializzazione, così. E quando in futuro sentirete di qualcuno che ha trovato un rondone a terra e non sa che fare, consigliate di mettersi in contatto con Trieste. Vi spiegheranno con pazienza come prestare il primo soccorso e, se fosse possibile, accompagnatelo lassù. Approfittatene per fare un salto in quella stupenda città. Tutte le informazioni in internet nel sito liberidivolare2012.com. Ponimi come un sigillo sul tuo cuore, così resterò impresso in te. Passavi appena le sottili dita sul prepuzio, poi sfioravi il glande, i sensi celebravano il loro splendore, ed era bello starti ad osservare, confermavi il mondo della coesistenza materiale. Ponimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sulle tue braccia, e ponimi come un sigillo sul tuo cuore. Pronuncio il tuo nome contro ogni sventura. Vinceva la tristezza il tuo soffio vitale eretico. Seguivo le gazzelle veloci come il sogno che mi passa accanto, ed era bello starti ad osservare, confermavi il tempo della coesistenza materiale. Ponimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sulle tue braccia, e ponimi come un sigillo sul tuo cuore. Perché quando sarò in esilio e al buio resterò nelle notti oscure, inconsapevole del divenire, ponimi come un sigillo sul tuo cuore. Anche le persone sensibili verso gli altri animali si trovano talvolta a dover cercare un libro per bambini, e per loro le cose non sono affatto semplici, soprattutto quando si vuole andare oltre ai soliti triti stereotipi. Ripensando alle fiabe che ci leggevano da piccoli, effettivamente il lupo è sempre cattivo, la cicala è una fannullona, l'aquila è crudele ed orgogliosa, l'asino è ignorante e stupido, la volpe è ingannatrice e il grillo prende una ciabattata che lo stecchisce sul muro. Per soccorrere i genitori senza pregiudizi, qualche mese fa Roberta e Agata hanno ideato la rubrica Speriamo che sia vegan, una rubrica dedicata ai libri per bambini che amano gli animali. Il libro che oggi Agata e Roberta ci racconteranno si intitola La tela di Carlotta e parla dell'amicizia fuori dagli schemi fra un maiale e un ragno. A qualcuno potrebbe ricordare la vicenda di Babe, il maialino coraggioso, complice il fatto che al pari di questo è finito anche sul grande schermo con un film d'animazione e poi in un sequel per bambini di successo. In effetti il protagonista è sempre un cucciolo di maiale, ma in La tela di Carlotta la sua storia si intreccia proprio come una ragnatela con quella del ragno che gli salverà la vita. Il libro di Elvin Brooks White, prima ancora del film, ha ricevuto nel tempo onorificenze e premi. Pubblicato per la prima volta nel 1952, ha vinto la medaglia Newbery e da anni si trova nelle liste che raccolgono la migliore letteratura per bambini. Già celebre per un altro romanzo per ragazzi, Le avventure di Stuart Little, nella tela di Carlotta White racconta la storia di un'amicizia interspecifica e della solidarietà, dove al coraggio si uniscono l'astuzia per farla in barba alla cieca avidità umana. Tutta inizia infatti quando il papà della piccola Fern un giorno va al porcile con una scure. Dove sta andando papà con quella scure? Al porcile, stanotte sono nati porcellini. Ma non capisco che bisogno c'è di una scure. Sai, uno dei porcellini è nato male, molto piccolo e debole. Non varrà mai un granché. Così tuo padre ha deciso di eliminarlo. Eliminarlo? Ma è ingiusto! Il porcellino non ne ha colpa se è nato troppo piccolo, no? C'è qualche cosa in più. Fortunatamente Fern riesce a convincere i genitori a risparmiare la vita al piccolo maialino. Da quel giorno sarà lei a prendersi cura di Wilbur, accudendolo amorevolmente. Ma la tranquillità è di breve durata. Ben presto il padre decide di venderlo allo zio con la promessa che la bimba potrà andare a trovarlo. Ma nel suo recinto Wilbur non è felice. Faccio qua qua qua e se voglio dir qualcosa non ho difficoltà, parlo anch'io con un mio stile. La smetti di far tanto chiasso? Parlo anch'io! Non ho ancora 2 mesi e sono già stanco di vivere. Quando sono fuori non posso andare altro che dentro. Quando sono dentro non posso andare altro che fuori nel recinto. Proprio qui sta il tuo sbaglio, amico mio. Non devi costringerti in quel piccolo sporco recinto. Una delle assi non è più salda. Spingila, spingila e vieni fuori. Hai detto che un'asse non è più salda? Proprio così. Che impressione si prova essere liberi? Mi piace. Il piacere della appena assaporata libertà è fugace. Wilbur, spaventato in quel mondo sconosciuto, viene nuovamente catturato e rinchiuso nel suo angusto recinto, dove rifiuta anche il cibo. La vita sembra riservargli solo tristezza e solitudine, finché un giorno qualcuno, anzi qualcuna, richiama la sua attenzione. Vuoi un amico? Sì, voglio un amico, ma voglio vivere anche. E allora su con la vita, io ti sarò amica. Cerchi un amico, Wilbur? Sarò io il tuo amico. È tutto il giorno che ti osservo e mi piaci. Non riesco a vederti. Chi sei e dove sei? Mi trovo proprio sopra la tua testa. Ora dormi, mi vedrai domattina. Mi vedi ora? Oh, sì, certamente. Buongiorno, omaggi. Lietissimo di fare la tua conoscenza. Posso sapere il tuo nome? Il mio nome è Carlotta. Il tempo passa. I giorni in compagnia di Carlotta sono più lieti e gioiosi. Wilbur cresce e ingrassa, anche troppo. Il presagio di quello che si era sempre temuto sta per diventare una terribile minaccia per il giovane maialino. Non voglio morire! Ci sarà pure qualcuno che mi salverà! Salvatemi! Sta calmo, Wilbur! Come faccio a stare calmo? Non voglio essere ammazzato! Non voglio morire! Carlotta, è vero quello che dice la vecchia pecora? È vero che quando verrà freddo mi ammazzeranno? Beh, la vecchia pecora è in questa fattoria da molto tempo. Ha visto parecchi porcellini venirsene in primavera e andarsene con i primi freddi. Se dice che penseranno di ammazzarti, sono sicura che è la verità. Ma è anche il più lurido inganno che io abbia mai sentito. Cos'è capace di pensare la gente? Non voglio morire! E non morirai! Cosa? Davvero? E chi mi salverà? Io! Come? Questo si vedrà, ma io ti salverò. Wilbur si salverà? Cosa escogiterà Carlotta? Per saperlo, non resta che leggere il libro. Sempre a dire. La tela di Carlotta di Elvin Brooks White per bambini dai 9-10 anni, editore Mondadori, collana Oscar Junior, 208 pagine, costo 9,50 €. I'm so very sick. La compassione non è un crimine. Anita Crines dell'associazione canadese Toronto Pig Save è stata assolta dal reato di aver offerto, pensate, dell'acqua a un maiale assetato che si trovava sul camion che lo stava conducendo al macello. Questa assoluzione è molto importante per tutti quei gruppi che stanno facendo presidi davanti ai mattatoi. Anche in Italia abbiamo una campagna in atto, si chiama No Mattatoio, potete trovarla su Facebook. Tra Bergamo e Milano, nel parco Adda Nord, è presente da diversi anni una colonia di procioni di circa 100 esemplari. Nonostante non sia ancora stato eseguito un censimento ufficiale e non vi sia evidenza di un loro aumento significativo, così come non vi siano evidenze concrete certificate di danni arrecati dagli orsetti all'interno dei nuclei abitati nelle cui vicinanze vivono, il parco, unitamente alle Università di Milano e dell'Insubria, ha deciso di eradicarli tramite abbattimento, con la scusa che il numero è diventato troppo elevato e che quindi gli orsetti arrecherebbero danni al territorio e sono pericolosi per l'uomo. La LAV propone invece il contenimento in loco dei procioni tramite sterilizzazione, integrato eventualmente dalla cattura e trasferimento verso i centri specializzati presenti sul territorio nazionale, e ha lanciato una raccolta firme per fermare i fucili. Niente più animali nei circhi, è quanto prevede il disegno di legge numero 2287 bis all'esame della Commissione Permanente Istruzione e Cultura del Senato, che presto potrebbe ricevere l'ok per la discussione e il voto in aula. In particolare, tra le varie misure sulle attività circensi fa discutere la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali. In Italia, a differenza di altri paesi europei, non vi sono norme che vietano l'uso degli animali nei circhi e non esistono né registri nazionali che evidenziano quanti siano gli animali detenuti nei circhi, né in quali circhi gli stessi si trovino, né tantomeno il tasso di riproduzione degli animali detenuti. Secondo il monitoraggio effettuato dalla LAV, attualmente dovrebbero essere circa 2.000 gli animali detenuti in poco più di 100 circhi, e molto elevata sarebbe la detenzione di specie in via di estinzione come le tigri. Secondo il rapporto Eurispes 2015, inoltre, il 68,3% degli italiani si è dichiarato contrario all'uso degli animali nei circhi. E mentre anche il presidente della Federazione dell'Ordine dei Veterinari si schiera a favore di una graduale dismissione degli animali da circo, i circensi non si arrendono e protestano con il sostegno più svariato. Tra gli altri, Vittorio Sgarbi, che definisce il circo con animali un luogo di libertà. Senza gli animali, il circo andrebbe incontro a morte certa. Questo è il messaggio che il circo italiano ha lanciato il 2 maggio mattina dalla piazza del Pantheon, dove sono intervenuti personaggi, pensate, del calibro di Carlo Giovanardi e Vittorio Sgarbi. Il circo è un luogo di libertà, di sogno e di ritorno all'infanzia, ha sostenuto Sgarbi. La politica non ingerisca né condizioni questo mondo. I tipi di cucina possono essere cruelty free, tutte le ricette del mondo possono essere veganizzate e non lo dico io che ho difficoltà anche con il tostapane, lo dice Gabriele Palloni, il tosco vegan chef che con pazienza e maestria ha veganizzato 250 ricette tradizionali della cucina regionale italiana. Le troverete tutte 250 nel bel libro La cucina regionale italiana vegana, edizione Newton Compton, libro arricchito dalle splendide foto di Luca Daddi. Gabriele Palloni conduce la nostra rubrica di cucina battezzata appropriatamente Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Il piatto che vi racconto oggi è un po' più complicato del solito, o meglio, più elaborato, perché è una ricetta un po' presuntuosa, che vanta un tocco artistico nella sua presentazione. Ma in cucina si sa, conta il gusto, ma anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi gli ingredienti per 4 persone, per gli arancini al limone con cuore di fiori di zucca e salsa ai 3 colori, sono 300 g di riso tipo carnaroli o originario, 2 zucchine con fiore, la scorza e il succo di un limone, uno spicchio di aglio, della menta fresca, olio extravergine di oliva, zafferano, 100 g di pan grattato, olio per friggere, sale e pepe. Per le salse invece una carota viola, una cipolla bianca, aceto di mele, una carota arancio, della maionese di soia, curcuma in polvere. Mettete il riso in una pentola assieme allo zafferano e a 1 litro di acqua. Coprite e fate cuocere a fuoco lento fino a quando avrà asciugato tutta l'acqua. Spengete e fate intiepidire. Condite il riso con 2 cucchiai di olio extravergine, il succo e la scorza del limone e amalgamate bene. Quindi stendetelo in una pirofila e lasciate riposare. Intanto preparate il ripieno. Rosolate l'aglio e la menta tritati finemente in olio extravergine. Aggiungete le zucchine tagliate a quadretti molto piccoli e fate cuocere lasciando piuttosto croccante. Pulite i fiori, apritali e spennellateli di olio e fateli seccare adagiandoli su carta forno infornando per pochi minuti a 180 gradi. Con il riso formate delle palline di circa 150 grammi. Formate un incavo al centro e farcite con 1 cucchiaio di salsa di zucchine. Chiudete con altro riso dando una forma sferica o se preferite a goccia. Passate gli arancini nel pan grattato e friggete in abbondante olio ben caldo fino a quando risulteranno ben dorati. Preparate una maionese di soia colorandone metà di giallo con la curcuma e l'altra metà di arancio frullando una carota lessata. Stufate invece la carota viola con la cipolla bianca e l'aceto di mele. Quando sarà cotta frullatela a crema aggiungendo olio extravergine e sale. Servite gli arancini con 3 cucchiai di salse e una chips di fiori. A onor del vero, anche il titolo della rubrica di cucina Il Pasto Gentile è titolo di un libro scritto da un nostro redattore, Giuseppe Coco. Non c'è niente da fare, siamo evidentemente una redazione che ha moltissime cose da dire. Ricordiamo le persone che hanno lavorato per andare in onda, ovvero Lorenzo Guadagnucci, Silvana Di Mauro, Roberta Marino, Agata, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti e la conduttrice solitaria Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.